I gusti che Albertina aveva e che negava, quei gusti la cui scoperta m'era arrivata non con un freddo ragionamento, ma con la sofferenza bruciante provata alla lettura di quelle parole, mi mandi in estasi. Sofferenza che dava loro una particolarità qualitativa, quei gusti s'aggiungevano all'immagine di Albertin non soltanto come al Bernardo l'eremita s'aggiunge la nuova conchiglia che esso si trascina dietro, ma piuttosto come un sale che, entrando in contatto con un altro sale, ne cambia il colore, anzi, per una sorta di precipitato, la stessa natura. Quando la piccola lavandaia aveva detto, come certo aveva detto alle sue amiche, pensate un po', chi l'avrebbe mai immaginato, è anche lei così, la signorina, ciò che aggiungevano alla sua persona non era soltanto per me un vizio che dapprima non avevano sospettato, ma la scoperta che Albertine era un'altra persona. Una persona come loro, che parlava la stessa lingua, il che, facendola compatriota di altre, me la rendeva, a me, ancora più straniera. Provava che quanto avevo avuto da lei, quanto portavo nel mio cuore, non era che una piccolissima parte di lei, mentre il resto, che prendeva tanta estensione dal non essere soltanto quella cosa già misteriosamente importante che è un desiderio individuale, ma dall'essere comune a lei e ad altre, me l'aveva sempre nascosto. Me ne aveva tenuto lontano, come una donna che m'avesse nascosto d'essere d'un paese nemico e spia, anzi ancor più da traditrice d'una spia, perché una spia mente solo sulla sua nazionalità e Albertini invece sulla sua umanità più profonda, sul fatto di non appartenere all'umanità comune ma a una razza strana che vi si mescola e nasconde senza mai fondersi con essa. Avevo visto due dipinti di Elstir, appunto, con delle donne nude in un paesaggio folto. In uno, una delle due fanciulle solleva il piede come doveva fare Albertin quando l'offriva alla lavandaia. Con l'altro spinge nell'acqua l'altra fanciulla che resiste gaiamente, la coscia alzata, il piede immerso appena nell'acqua azzurra. Ricordavo adesso che quella coscia sollevata formava con l'angolo del ginocchio la stessa curva da collo di cigno della sinuosità della coscia di Albertine quando giaceva accanto a me sul letto e spesso avevo pensato di dirle che mi ricordava quei dipinti. Ma non l'avevo fatto, per non destare in lei l'immagine di corpi femminili nudi. Adesso la vedevo ricomporre accanto alla lavandaia e alle sue amiche il gruppo che avevo tanto amato quando a Balbec sedevo in mezzo alle amiche di Albertine. E se fossi stato un esteta sensibile solo alla bellezza, avrei ammesso che Albertine lo ricomponeva mille volte più bello, ora che a costituirne gli elementi erano statue nude di dee come quelle che a Versailles i grandi scultori sparpagliavano sotto i boschetti o lasciavano che nelle vasche lavasse e levigasse la carezza dell'onda. Adesso, accanto alla lavandaia, la vedevo fanciulla in riva al mare, molto più di come era stata per me a Balbec nella loro doppia nudità di marmi femminili in mezzo all'afa e al verde e immerse nell'acqua come bassorilievi nautici. Ricordandomi com'era nel mio letto, mi sembrava di vedere la sua coscia ricurva. La vedevo, era un collo di cigno che cercava la bocca dell'altra fanciulla. A quel punto non vedevo neanche più una coscia, ma il collo ardito d'un cigno, simile a quello che in un abbozzo fremente cerca la bocca d'una leda, vista in tutto lo specifico palpitare del piacere femminile, perché non c'è che un cigno e lei sembra più sola, così come al telefono. Si scoprono in una voce le inflessioni che non è possibile distinguere finché essa non sia dissociata da un volto in cui si oggettiva la sua espressione. In quell'abbozzo, il piacere, anziché volgersi verso la donna che lo ispira e che è assente, sostituita da un cigno inerte, si concentra in colei che lo prova. A tratti, la comunicazione fra il mio cuore e la mia memoria si interrompeva. A significarmi ciò che Albertina aveva fatto con la lavandaia non erano più che abbreviazioni quasi algebriche, incapaci di rappresentarmi alcunché. Ma 100 volte all'ora la corrente interrotta veniva ristabilita e un fuoco d'inferno bruciava senza pietà il mio cuore mentre vedevo Albertine resuscitata dalla mia gelosia, veramente viva, irrigidirsi alle carezze della piccola lavandaia alla quale diceva mi mandi in estasi. Poiché era viva nel momento in cui commetteva la sua colpa, cioè nel momento in cui io stesso mi trovavo, non mi bastava conoscere quella colpa. Avrei voluto che lei sapesse che la conoscevo. Se in quei momenti mi rammaricavo al pensiero che non l'avrei mai più rivista, il mio rammarico portava così il marchio della mia gelosia. E, affatto diverso dal rammarico straziante dei momenti in cui l'amavo, non era che il rammarico di non poterle dire «Credevi che non avrei mai saputo cosa hai fatto dopo avermi lasciato? Ebbene, so tutto! La lavandaia in riva alla Loira, le dicevi mi mandi in estasi, ho visto il morso!» Mi dicevo, certo, perché tormentarmi? Colei che ha provato piacere con la lavandaia non è più niente, non è una persona. Dunque le sue azioni non conservano alcun valore. Non dice a se stessa che io so, ma non si dice nemmeno che io non so, perché non si dice niente. Ma questo ragionamento mi persuadeva meno della vista del suo piacere, che mi riportava al momento in cui lei l'aveva provato. Ciò che sentiamo è l'unica cosa che esiste per noi, e noi la proiettiamo nel passato, nell'avvenire, senza lasciarci fermare dalle barriere fittizie della morte. Se il mio rammarico che Albertine fosse morta subiva in quei momenti l'influsso della mia gelosia e prendeva quella forma così particolare, tale influsso si estese naturalmente ai miei sogni di occultismo, di immortalità, che erano soltanto uno sforzo per cercar di realizzare quanto desideravo. Così, se fossi riuscito a evocarla facendo ballare un tavolino, cosa che Bergot aveva ritenuta possibile, o a incontrarla in un'altra vita come pensava l'abate Ex, in quei momenti me lo sarei augurato soltanto per ripeterle «So tutto della lavandaia, dicevi mi mandi in estasi, ho visto il morso!» A venirmi in soccorso contro l'immagine della lavandaia fu, dopo un po' che durava, si capisce, l'immagine stessa. Perché noi conosciamo veramente solo ciò che è nuovo, ciò che introduce bruscamente nella nostra sensibilità un cambiamento di tono che ci colpisce, ciò che l'abitudine non ha ancora sostituito con i suoi pallidi facsimili. Ma fu soprattutto quel frazionamento di Albertine in numerose parti, in numerose Albertine, che era il suo solo modo di esistere in me. Tornarono momenti in cui era stata solamente buona, o intelligente, o seria, o magari appassionata di sport più che d'ogni altra cosa. E in fondo non era giusto che mi calmasse questo frazionamento. Infatti, pur non essendo in sé nulla di reale, pur dipendendo dalla forma successiva delle ore in cui lei mi era apparsa, forma che era poi quella della mia memoria, così come la curvatura delle proiezioni della mia lanterna magica dipendeva dalla curvatura dei vetri colorati, esso rappresentava tuttavia a suo modo una verità, quella sì, oggettiva, e cioè che ciascuno di noi non è uno, ma contiene numerose persone, le quali non hanno tutte lo stesso valore morale. E che l'esistenza dell'Albertine viziosa non impediva che ce ne fossero state altre. Quella che amava parlare con me di Saint-Simon in camera sua. Quella che la sera in cui le avevo detto che dovevamo separarci aveva detto con tristezza questa pianola, questa camera, pensare che non rivedrò mai più tutte queste cose. E quando s'era accorta della commozione che la mia menzogna aveva finito col comunicarmi, aveva esclamato con una pietà così sincera «Oh no, qualsiasi cosa pur di non farvi soffrire, d'accordo, non cercherò di rivedervi». Allora non fui più solo. Dal momento che l'Albertine buona era tornata, avevo ritrovato la sola persona alla quale potessi chiedere l'antidoto contro le sofferenze che Albertine mi causava. Certo, avrei sempre voluto parlarle della storia della lavandaia, ma non più in un tono di crudele trionfo e per mostrarle con cattiveria che la conoscevo. Le chiesi teneramente se la storia della lavandaia fosse vera, come avrei fatto se Albertine fosse stata viva. Mi giurò di no, che Aimé non era molto attendibile e che per far vedere d'essersi guadagnato il denaro che gli avevo dato, non aveva voluto tornare a mani vuote e aveva fatto dire alla lavandaia quel che aveva voluto. Sicuramente Albertine non aveva smesso di mentirmi. Eppure nel flusso e riflusso delle sue contraddizioni sentivo che c'era stata una certa progressione dovuta a me. Che all'inizio non m'avesse fatto delle confidenze, forse è vero involontarie, in qualche frase sfuggita, non avrei potuto giurarlo. Non me ne ricordavo più. E poi aveva modi così bizzarri di chiamare certe cose che questo poteva significare questo oppure no. Ma la percezione della mia gelosia l'aveva portata in seguito a ritrattare con orrore ciò che dapprima aveva compiacentemente confessato. Del resto, Albertine non aveva nemmeno bisogno di dirmelo. Per persuadermi della sua innocenza mi bastava baciarla. E potevo farlo adesso che era caduto il muro che ci separava, simile a quello impalpabile e resistente che, dopo un litigio, si innalza fra due innamorati e contro cui si infrangerebbero i baci. No, non aveva bisogno di dirmi niente. Avesse fatto pure, povera piccina, quel che aveva voluto. C'erano sentimenti nei quali potevamo unirci al di sopra di quanto ci divideva. Se la storia era vera, e se Albertine mi aveva nascosto i suoi gusti, era stato per non farmi soffrire. Ebbi la dolcezza di sentirglielo dire a quella Albertine. D'altronde, ne avevo mai conosciuto un'altra. Nei nostri rapporti con un altro essere, le maggiori cause d'errore sono che noi abbiamo buon cuore oppure che quell'essere lo amiamo. Si ama per un sorriso, per uno sguardo, per una spalla. Quanto basta. Nelle lunghe ore di speranza o di tristezza si fabbrica allora una persona, si compone un carattere. E quando più tardi si frequenta la persona amata, non si può, a qualsiasi crudele realtà si sia messi di fronte, togliere quel carattere buono, quella natura di donna che ci ama all'essere a cui appartengono quel certo sguardo, quella certa spalla, più di quanto possiamo toglierla quando invecchia a una persona che conosciamo fin dalla sua giovinezza. Evocai lo sguardo bello, così buono e compassionevole di quella Albertine, le sue grosse guance, il suo collo dalla grana larga. Era l'immagine di una morta. Ma poiché quella morta viveva, mi fu facile fare immediatamente ciò che avrei infallibilmente fatto se mi fosse stata accanto in vita, e che farei se mai dovessi ritrovarla in un'altra vita. La perdonai. Gli istanti vissuti accanto a quella Albertine mi erano così preziosi che avrei voluto che non me ne fosse sfuggito nessuno. E a volte, così come si recuperano le briciole d'un patrimonio dissipato, ne ritrovavo che m'eran parsi perduti. Annodandomi al collo un foulard sul dietro anziché sul davanti, ricordavo una passeggiata a cui non avevo mai ripensato e durante la quale, perché non prendessi freddo alla gola, Albertine me l'aveva accomodato in quel modo, dopo avermi dato un bacio. Quella passeggiata così semplice, restituita alla mia memoria da un gesto così umile, mi diede il piacere di certi oggetti intimi appartenuti a una morta amata e consegnatici dalla sua vecchia cameriera, che hanno per noi un così gran valore. Il mio dolore ne veniva arricchito, e tanto più perché da allora, a quel foulard, non ci avevo mai ripensato.